Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi siamo in compagnia di Francesca Mori, lei è di Babaco Market. Noi li abbiamo conosciuti perché da non molto hanno iniziato a distribuire anche a Bologna con le cassette di frutta e verdura, diciamo che non sono uscite dal parrucchiere, cioè quelle imperfette, quelle che hanno, come dire, tutte le cose che succedono quando si coltiva la frutta e non passano i criteri di bellezza, è corretto? Giusto, esatto. Noi siamo il primo delivery di frutta e verdura antispreco in Italia. Antispreco proprio perché diamo una seconda possibilità a tutti quei prodotti di origine di agricoltura italiana che non nascono perfetti, vuol dire prodotti che possono avere dei calibri troppo grandi o troppo piccoli, delle deformazioni o dei piccoli difetti di buccia dovuti alle intemperie, ma che ovviamente sono ancora buonissimi da mangiare e nascono come la natura ovviamente li fa, però purtroppo agli occhi dei consumatori che sono abituati a vedere i prodotti sempre perfetti risultano un po' diversi, unici, diciamo. Adesso noi qui a Radio Città Fucico possiamo testimoniare invece che se agli occhi sono imperfetti, alle papille gustative sono ottimi, perché insomma noi li abbiamo provati e sono se non meglio degli altri. E poi volevamo sottolineare insomma anche che questo metodo di distribuzione, oltre a permettere di risparmiare sugli sprechi, permette anche di risparmiare sui trasporti. Esatto, noi consegniamo direttamente a casa dei nostri consumatori, le nostre box, e i prodotti, come dicevo, sono tutti di origine italiana, quindi evitiamo tra l'altro trasporti poco sostenibili di prodotti che attraversano il mondo per arrivare sulle nostre tavole. È una bellissima cosa, insomma, di questi tempi non è certo secondario. Oltre a Bologna, dove servite? Allora, noi siamo attivi già da qualche anno a Milano, provincia, e a Torino. E siamo arrivati all'inizio di quest'anno anche in Emilia con appunto Bologna, Reggio Emilia, Parma e Modena. E come si può trovarvi? Basta andare sul nostro sito che è www.babacomarket.com ed è possibile scegliere le box. Ci sono due dimensioni di box, una da 6 kg, una da 10 kg, e scegliere la frequenza con cui si vuole ricevere la box. Il servizio infatti nasce come abbonamento, così non c'è neanche più il pensiero di dover ordinare e fare la spesa di frutta e verdura settimanale, perché ci pensiamo noi. Grazie ancora Francesca e vi rimando su babacomarket.com.